secondo. Capitolo primo. Charlot in società. Un medico. L'inconfondibile aspetto di Madame de Vaugobert, Madame d'Arpajon, la fontana di Hubert Robert e il buon umore del Granduca Vladimiro. Madame de Moncourt, Madame de Sitry, Madame de Saint-Hubert, eccetera. Bizzarra conversazione tra Swann e il principe di Gourmand, Albertina al telefono, qualche visita in attesa del mio secondo e ultimo soggiorno a Balbec, arrivo a Balbec, gelosia per Albertine, le intermittenze del cuore. Non avendo alcuna fretta ad arrivare al ricevimento dei Gourmand, cui non ero certo d'essere invitato, indugiavo oziosamente per strada. Ma la giornata estiva sembrava non avesse più premura di me. Benché fossero passate le 9, era ancora là, in Place de la Concorde, a dare all'obelisco di Luxor l'aspetto d'un torrone rosa. Poi, modificandone il colore, lo mutò in una materia così metallica che non solo l'obelisco diventò più prezioso, ma parve più sottile e quasi flessibile. Veniva da pensare che lo si sarebbe potuto torcere, che qualcuno forse avesse già leggermente deformato quel gioiello. In cielo, la luna era adesso un quarto d'arancia sbucciato con delicatezza, sebbene un po' intaccato. Ma di lì a qualche ora sarebbe stata dell'oro più resistente. Dietro di lei, tutta sola e rannicchiata, una povera piccola stella avrebbe fatto da unica compagna alla luna solitaria, mentre questa, protettiva nei confronti dell'amica, ma precedendola arditamente, avrebbe brandito come un'arma irresistibile un simbolo orientale, la sua grande e splendida falce d'oro. Davanti al palazzo della principessa di Gourmand, incontrai il duca di Châtellerault. Non ricordavo più che fino a mezz'ora prima mi perseguitava il timore, nel quale d'altronde sarei ricaduto ben presto, di non essere stato invitato. Ci sentiamo inquieti ed è a volte molto tempo dopo l'ora del pericolo, dimenticata grazie alla distrazione, che ci ricordiamo della nostra inquietudine. Salutai il giovane duca e penetrai nel palazzo. Ma devo qui innanzitutto annotare una minima circostanza in base alla quale sarà possibile capire un fatto verificatosi subito dopo. C'era qualcuno che quella sera, come le precedenti, pensava molto al duca di Châtellerault, senza peraltro immaginare chi egli fosse. Si trattava dell'usciere, chiamato quel tempo strillone, di Madame de Gaumont. Ben lungi dall'essere intimo, così come era cugino della principessa, il signor di Châtellerault veniva ricevuto per la prima volta nel suo salotto. I genitori del duca, da 10 anni in rotta con la principessa, s'erano riconciliati con lei da 15 giorni e, forzatamente assenti quella sera da Parigi, avevano incaricato il figlio di rappresentarli. Ora, alcuni giorni prima, l'usciere della principessa aveva incontrato ai Champs-Élysées un giovanotto che gli era parso affascinante, ma del quale non era riuscito a stabilire l'identità. Non che il giovanotto non si fosse mostrato amabile, e tanto amabile quanto generoso. Tutti i favori che l'usciere aveva supposto di dover accordare a un così giovane signore, li aveva al contrario ricevuti. Ma il signor di Châtellerault era non meno timoroso che imprudente, e tanto più deciso a non svelare il proprio incognito in quanto ignorava con chi avesse a che fare. Ben maggiore, sebbene infondata, sarebbe stata la sua paura se l'avesse saputo. Aveva pensato di spacciarsi per inglese e a tutte le domande appassionate rivoltegli dall'usciere, che desiderava poter ritrovare una persona nei cui confronti aveva un tale debito in termini di piacere e di elargizioni, si era limitato a rispondere, per tutta la lunghezza di Avenue Gabriel, «I do not speak French». Benché nonostante tutto, a causa dell'ascendenza materna di suo cugino, il duca di Gaumont ostentasse di scorgere un pizzico di courvoisie nel salotto della principessa di Gourmand Baviera, lo spirito di iniziativa e la superiorità intellettuale di questa dama venivano generalmente misurati in base a un'innovazione che nell'ambiente non aveva altri riscontri. Finito il pranzo, e indipendentemente dall'importanza del ricevimento che sarebbe seguito, in casa della principessa di Gourmand le sedie venivano disposte in modo tale da favorire la formazione di piccoli gruppi che all'occorrenza si davano la schiena. La principessa faceva allora sfoggio del suo senso sociale andando a sedersi, come per preferenza, in uno di quei gruppi. Non esitava del resto a scegliere e ad attirarvi il membro di un altro gruppo. Se per esempio aveva fatto notare a Détail, che naturalmente aveva annuito, come fosse bello il collo di Madame de Villemure, la quale seduta in un altro gruppo mostrava loro la schiena, la principessa non si peritava ad alzare la voce. «Madame de Villemure, il signor Détail, da quel grande pittore che è, sta ammirando il vostro collo». Madame de Villemure coglieva in questa frase un invito diretto alla conversazione. Con la disinvolta agilità che deriva dalla dimestichezza col cavallo, faceva lentamente compiere alla sua sedia una rotazione pari a tre quarti di cerchio e senza per nulla scomodare i vicini, veniva a trovarsi quasi di fronte alla principessa. «Non conoscete il signor Détail?» le chiedeva la padrona di casa, non accontentandosi dell'abile e pudica conversione della propria ospite. «No, non lo conosco, ma conosco i suoi quadri», rispondeva Madame de Villemure, in tono rispettoso e incoraggiante, con un senso dell'opportunità che molti le invidiavano, non senza rivolgere al celebre pittore che la domanda della principessa non era bastata a presentarle in modo formale un impercettibile saluto. «Venite, Détail», si interponeva la principessa, «voglio presentarvi a Madame de Villemure». Quest'ultima allora, per fare spazio all'autore del Rêve, si avvaleva della stessa ingegnosità applicata poco prima nel girarsi verso di lui. E la principessa spostava una sedia anche per sé. Infatti, aveva interpellato Madame de Villemure come puro pretesto per sottrarsi al primo gruppo, dove aveva trascorso i 10 minuti regolamentari, e accordare al secondo una presenza d'uguale durata. Nel giro di tre quarti d'ora, tutti i gruppi avevano ricevuto la sua visita, che sembrava scandita ogni volta solo da estemporanee predilezioni, ma il cui scopo precipuo consisteva nel mettere in rilievo con quanta naturalezza una gran dama sappia ricevere. Ormai però gli invitati alla serata cominciavano ad affluire e la padrona di casa s'era seduta non lontana dall'ingresso, eretta e fiera nella sua maestà quasi regale, gli occhi accesi dalla loro stessa incandescenza, fra due altezze prive di fascino e l'ambasciatrice di Spagna. Io facevo la coda dietro alcuni invitati giunti prima di me. Vedevo, proprio di faccia, la principessa, la cui bellezza non è certo la sola, fra tante altre, a rammentarmi quella festa. Ma era così perfetto il viso della padrona di casa e coniato come una così splendida medaglia da aver serbato per me una virtù commemorativa. La principessa soleva dire ai suoi invitati, incontrandoli pochi giorni prima ad una delle sue serate, «Verrete, non è vero?» come se nutrisse un vivo desiderio di intrattenersi con loro. Ma siccome, al contrario, non aveva nulla da dirgli, man mano che le sfilavano davanti si limitava, senza alzarsi, a interrompere per un istante la sua vana conversazione con le due altezze e con l'ambasciatrice e a ringraziarli dicendo «Siete stato gentile a venire», non perché, a suo giudizio, l'invitato venendo avesse dato prova di gentilezza, ma per sottolineare ulteriormente la propria. Poi, ricacciandolo senza indugio nella corrente, aggiungeva «Troverete il signor di Guermont all'ingresso dei giardini», in modo che andassero a salutarlo e la lasciassero tranquilla. A Certuni, anzi, non diceva niente, paga di mostrare loro i suoi stupendi occhi d'onice, come se fossero venuti solo per ammirare un'esposizione di pietre preziose. La persona che sarebbe passata immediatamente prima di me era il duca di Châtellerault. Dovendo rispondere a tutti i sorrisi, a tutti i cenni che gli giungevano dal salotto, non aveva visto l'usciere. Ma questi l'aveva ravvisato sin dal primo istante. Ancora un attimo e quell'identità che aveva tanto desiderato di conoscere finalmente l'avrebbe scoperta. Chiedendo al suo inglese dell'altro giorno quale nome dovesse annunciare, l'usciere non era solo in preda all'emozione, ma si giudicava anche indiscreto, indelicato. Gli sembrava d'essere sul punto di rivelare a tutti, i quali peraltro non avrebbero dubitato di nulla, un segreto che si sentiva in colpa di sorprendere a quel modo e di proclamare pubblicamente. Udendo la risposta dell'invitato, il duca di Châtellerault, l'orgoglio gli provocò un tale turbamento da renderlo momentaneamente muto. Il duca lo guardò, lo riconobbe, si vide perduto, mentre il domestico, che si era ripreso e aveva sufficienti cognizioni araldiche per completare da sé quell'appellativo troppo modesto, gridava con energia professionale vellutata da un'intima tenerezza: «Sua Altezza Monsignore il Duca di Châtellerault!» Ma toccava a me, adesso, essere annunciato. Assorto nella contemplazione della padrona di casa, che non m'aveva ancora visto, non avevo posto mente alle funzioni terribili per me, sebbene in maniera diversa che per Châtellerault, di quell'usciere vestito di nero come un carnefice, circondato da una schiera di lacchè dalle livree più sgargianti, robusti giovanottoni pronti a ghermire un intruso e a metterlo alla porta. L'usciere mi chiese il mio nome. Glielo dissi meccanicamente, come il condannato a morte si lascia incatenare al ceppo. Subito lui alzò maestosamente il capo e prima che io potessi pregarlo ad annunciarmi a bassa voce per risparmiare il mio amor proprio nel caso che non fossi invitato e quello della principessa di Gourmand nel caso che lo fossi, scandì le sillabe inquietanti con un impeto capace di scuotere la volta del palazzo. L'illustre Huxley, quello il cui nipote occupa attualmente un posto di preminenza nel mondo della letteratura anglosassone, racconta che una delle sue malate non osava più recarsi in società perché spesso, nella poltrona che le veniva indicata con gesto cortese, le sembrava di veder seduto un vecchio signore. Era certissima che o il gesto d'invito o la presenza del vecchio signore fosse un'allucinazione, giacché nessuno le avrebbe mai additato una poltrona già occupata. E quando Huxley, per guarirla, la costrinse a tornare ad un ricevimento, ebbe un istante di penosa esitazione, chiedendosi se quel segno gentile che le facevano fosse reale o se, per obbedire a una visione inesistente, non sarebbe andata a sedersi pubblicamente sulle ginocchia ad un signore in carne ed ossa. La sua breve incertezza fu crudele, meno forse della mia. Dal momento in cui avevo percepito il rombo del mio nome, preannuncio sonoro di un possibile cataclisma, dovetti, per suffragare in ogni caso la mia buona fede e come se nessun dubbio mi tormentasse, avanzare verso la principessa con aria risoluta. Ero a pochi passi da lei quando mi vide e cosa che non mi permise più di dubitare d'essere stato vittima di una macchinazione. Invece di restare seduta come per gli altri invitati, si alzò, venne verso di me. Un attimo dopo potevo tirare lo stesso respiro di sollievo della paziente di Huxley quando, presa la decisione di sedersi nella poltrona, la trovò libera e capì che l'allucinazione era il vecchio signore. La principessa mi aveva teso la mano sorridendo. Restò in piedi per qualche istante, con la grazia caratteristica di quella stanza di Malherb che finisce «E gli angeli alzarsi per far loro onore». Si scusò che la duchessa non fosse ancora arrivata, come se in sua assenza io mi dovessi annoiare. Per porgermi quel saluto creò intorno a me, tenendomi la mano, un turbinio pieno di grazia, nel cui vortice mi sentii trascinato. Quasi quasi, m'aspettavo che mi consegnasse, come un'animatrice di cotillon, un bastone col manico d'avorio o un orologio da polso. Non mi diede in realtà nulla del genere. È come se, invece di danzare il Boston, stesse ascoltando un sacrosanto quartetto di Beethoven, i cui sublimi accenti temesse di turbare, troncò a quel punto la conversazione. O piuttosto non l'iniziò neppure. E ancora raggiante d'avermi visto entrare, mi indicò semplicemente dove potevo trovare il principe.